Salva Danaio di Deborah Rosciani. Bentrovati a tutti a Salva Danaio, benvenuti da Deborah Rosciani al nostro nuovo appuntamento con le tematiche finanziarie che riguardano le famiglie. Mentre le borse e i mercati finanziari, ormai lo raccontiamo ogni giorno, ci stanno letteralmente facendo perdere il sonno, le bollette non è che ci facciano stare tanto meglio. Insomma, negli ultimi tempi abbiamo dovuto affrontare anche il peso dell'aumento del prezzo del petrolio, che per fortuna adesso sta facendo marcia indietro, un effetto che si è propagato sui prezzi della benzina ma anche sulle bollette di luce e gas. Oggi parliamo proprio appunto delle spese che le famiglie italiane sostengono per elettricità e gas, ricordando che da ottobre hanno subito un nuovo aumento rispettivamente per quello che riguarda le bollette dell'elettricità dello 0,8% e del gas del 5,8%. Come vi abbiamo spiegato più volte, molte puntate di Salva Danaio abbiamo dedicato a questo argomento e sappiamo anche che molti di voi avranno approfittato di questo. Dal 1 luglio dello scorso anno è scattata la liberalizzazione per il mercato residenziale. Le famiglie possono scegliere da quella data liberamente il fornitore di elettricità. È stato un cambiamento molto importante, è stata però anche, qualcuno l'ha definita così, una rivoluzione silenziosa, perché le famiglie italiane hanno tardato, ci hanno riflettuto un po', insomma, prima di approfittare della liberalizzazione. È anche vero che gli operatori sono partiti con cautela e hanno lanciato solo nei mesi successivi a questa data le nuove offerte tariffarie appunto per le famiglie. Qual è oggi la situazione? Quali sono le proposte per il mercato residenziale? Come si fa a cambiare operatori? I nostri interlocutori di questa mattina saranno tre grandi player del mercato italiano: Simone Lonostro, responsabile marketing, supply e vendite corporate di Enel; Paola Osto, responsabile marketing, divisione Gas and Power di Eni; e Lorenzo Misani, responsabile servizio clientela di Edison. Per le vostre domande il numero verde è l'800 24 00 24. I vostri messaggi invece, come sempre, ce li potete indirizzare al 349 238 6666. La borsa oggi è una brutta giornata un'altra volta. Per la verità le cose vanno un po' meglio di come sono andate ieri sera a Wall Street e soprattutto di come sono andate stamattina in Asia, dove il Nikkei a Tokyo ha perso quasi il 7%, l'Hang Seng di Hong Kong ha perso più del 5%. Stamattina l'Europa tenta di arginare le perdite registrate su altri versanti continentali. Il listino di Parigi -2,61%, Francoforte -2,59%, Londra -3%, Milano va un po' meglio -1,70%, ma insomma i timori della recessione ormai si stanno sempre di più concretizzando. Si è un po' tranquillizzato relativamente il versante bancario e finanziario, ma a questo punto quello che si teme è l'entità della propagazione sull'economia reale di questa crisi finanziaria. Infatti le borse stanno praticamente inglobando letteralmente ormai questi timori. A Piazza Affari oggi i titoli che stanno sostenendo il listino: recupera Parmalat dopo il crollo di ieri +3,77%, recupera anche Fiat +2,61%, ancora in spolvero Bulgari, che risente positivamente del recupero del dollaro sull'euro che si sta registrando da qualche giorno, Bulgari +2,49%, Terna +1,31%, STM +0,6%. Invece i cali sono molto forti su Tenaris -5%, Finmeccanica -4,5%, Seat pagine gialle, che ha avuto anche una sospensione, perde 4 punti, Mediaset -3%, 23 Fastweb -3,17%. Volevo segnalarvi anche un'altra notizia. Su questo tema poi ci torneremo approfonditamente, quindi avviso già tutti gli ascoltatori, nella puntata di venerdì di Salva Danaio. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa congiunta Mediolanum e Fininvest. Il gruppo Mediolanum, anzi i soci di controllo di Mediolanum, quindi la famiglia Doris e Fininvest, hanno fatto sapere che si fanno carico delle perdite subite dalla clientela di Mediolanum su polizze index linked garantite da Lehman Brothers, quindi un intervento piuttosto importante di cui vi racconteremo i dettagli appunto venerdì a Salva Danaio. Adesso invece lasciamo la borsa, lasciamo le polizze, oggi parliamo di bollette di luce e gas. Da quando a luglio 2007 il mercato dell'energia elettrica si è aperto alla libera concorrenza anche nel settore domestico, su 28 milioni di famiglie sono circa 1.200.000 gli utenti che hanno abbandonato il vecchio fornitore, un dato più che rispettabile se si considera la tradizionale rigidità di questo settore e soprattutto se confrontata con il primo anno di liberalizzazioni in Inghilterra o in Francia. Il più grosso ostacolo al cambiamento è il timore di un'interruzione della fornitura, specialmente in inverno. Inoltre, in molti credono che insieme al contratto si debbano cambiare contatore, fili elettrici o tubi. Niente di tutto questo. Per passare da un fornitore ad un altro è sufficiente una firma sul contratto, una telefonata e in alcuni casi anche molto meno, un paio di clic sul sito internet della società energetica. C'è da scommettere però che l'autunno porterà consiglio e che molti, facendo i conti con i nuovi rincari, decideranno di cambiare fornitore. Dal 1 ottobre, infatti, sulla scia del caro petrolio, la spesa annuale delle famiglie è già aumentata dello 0,8% per l'elettricità e del 5,8% per il gas, che tradotto in cifre significa rispettivamente 3,7 e 61,5 euro in più all'anno. Ma le offerte per risparmiare non mancano. Oltre alla possibilità di cambiare formula contrattuale, pur restando con lo stesso fornitore, l'ingresso di nuove società energetiche ha già vivacizzato il parco delle offerte. A oggi il possibile risparmio medio si aggira intorno al 5%, fino ad arrivare al 10% per alcune proposte. È ora dunque di guardarsi intorno. E su questi temi volevo farvi sentire anche il contributo dell'avvocato Tommaso Salonico, partner dello studio legale Freshfield e Deringer, intervistato da Laura Bettini all'ottavo Energy Summit che si è svolto qui a Milano alla sede del Sole 24 Ore, un esperto di queste tematiche, soprattutto appunto della liberalizzazione del mercato elettrico. Sentiamolo. La liberalizzazione esiste da molti anni nel mercato del gas, solo recentemente nel mercato dell'energia. La percezione del consumatore è che i guadagni siano modesti, se non addirittura gli svantaggi siano rimasti. Quello che certamente si può fare è guardare in un'ottica di medio-lungo periodo, quindi rimuovere tutti quegli ostacoli allo sviluppo della concorrenza che oggi è ostacolata dalla presenza di posizioni ancora forti sul mercato di alcuni operatori verticalmente integrati. Nell'attesa che questo si compia, la politica del consumatore deve abituare una crescita nella coscienza nella scelta fra alternative, piuttosto che assicurare una tutela dall'alto con prezzi definiti, condizioni contrattuali definite, pubblicità più o meno tutte uguali, perché questo non fa crescere la capacità di scelta. Insomma, come avete sentito, come conferma anche, ma per la verità ce lo raccontano anche molti ascoltatori, la percezione fra i consumatori è che tutto sommato sia abbastanza difficile ancora, anche se poi le cose in questi mesi sono cambiate, poter fare delle comparazioni che ci facciano chiaramente capire qual è la offerta, nostra immagine e somiglianza. Sentiremo come risponderanno questa mattina i nostri interlocutori. Allora saluto intanto, perché qui a Milano vicino a me, Lorenzo Misani, responsabile servizio clientela di Edison. Benvenuti. Grazie, buongiorno a tutti. Reduci dalla presentazione della loro nuova offerta che insomma ha un po' spiazzato, mi dicono anche i competitor. Buongiorno e grazie di essere con noi a Simone Lonostro, responsabile marketing, supply e vendite corporate di Enel. Poi naturalmente nel corso della trasmissione sintetizzerò notevolmente le vostre cariche. Lo nostro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E buongiorno. Sintetizzi pure. E grazie anche di essere con noi a Paola Osto, invece responsabile marketing divisione Gas and Power di Eni. Dottoressa Osto, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, volevo anche dirvi un'altra cosa. Questa mattina l'Authority mi ha mandato un po' di dati su quello che può essere definito un bilancio, insomma, delle famiglie, anche delle piccole imprese che hanno cambiato operatore e hanno usufruito appunto delle nuove opportunità sul mercato. Si parla di circa 2 milioni di famiglie e piccole imprese che sono passate al mercato libero, hanno cambiato il fornitore di energia elettrica scegliendo fra le diverse offerte appunto presentate dai diversi venditori. Allora cerchiamo intanto di fare il punto su che caratteristiche hanno queste nuove offerte. Partiamo con Enel, il gruppo più grande. Simone, lo nostro. Sì. Allora, voi siete partiti con questa offerta che ho letto da qualche parte, la chiamate Light. Light. Sì. Perché? Perché è così leggera? Per il portafoglio? È così leggera, ci auguriamo soprattutto per il portafoglio, ma ci auguriamo anche per la facilità con la quale il cliente che è interessato la può scegliere, perché con un numero di click che credo si riesca a contare sulle dita di, forse di una mano no, ma di due sicuramente, si riesce ad attivare un contratto e quindi uscire dal cosiddetto mercato di maggior tutela, svincolandosi dalla tariffa e scegliere un prezzo fisso. Conseguentemente ci si assicura la spesa per i successivi 24 mesi e soprattutto si evitano gli orpelli burocratici e cartacei che normalmente si accompagnano all'attivazione di un nuovo contratto. Ecco, però ho letto da qualche parte, sintetizzando molto naturalmente le caratteristiche della vostra offerta, che promettete uno sconto del 27% rispetto a che cosa, dottor Lonostro? Non riesco a capire. Allora, lungi da noi promettere sconti sul futuro, perché soprattutto in questi giorni in cui ogni volta che si leggono dati di borsa o di petrolio è più un bollettino di guerra che un'analisi analitica. Non lo dica a me, guardi, combatto tutti i giorni. Noi abbiamo semplicemente lanciato un messaggio dicendo che chi ha scelto da quando noi abbiamo lanciato le nostre offerte e nell'energia come fornitore è riuscito a risparmiare fino al 27% sull'alternativa che era quella di restare sul mercato tutelato. Sul futuro non facciamo alcun tipo di promessa perché non abbiamo gli elementi, come nessuno ha gli elementi per prevedere il futuro, e conseguentemente non vogliamo fare false promesse o promettere cose che non potremo mantenere. Semplicemente ci basiamo su quello che è la storia, che però è una storia abbastanza consolidata, che ci dice che dal 2003 a oggi il petrolio è aumentato del 130% e la tariffa elettrica è aumentata del 73%. Allora, sentiamo invece Edison, l'ultima società arrivata con l'offerta relativa al mercato libero. Insomma, in molti si domandavano come mai non abbiate predisposto in tempi rapidi un'offerta per le famiglie, però abbiamo detto che in realtà c'è stata una graduale, no, presentazione da parte degli operatori delle offerte, anche perché insomma abbiamo parlato di una rivoluzione abbastanza importante, anche se poi questo magari è un aspetto che specificheremo nel corso della trasmissione. Inizialmente chi si è subito lanciato sul mercato libero ha presentato un'offerta teoricamente di blocco delle tariffe per un paio d'anni, e anche questa poi bisogna vedere se è la scelta giusta per le famiglie che hanno optato questa soluzione, perché visto che adesso magari con il petrolio che scende i prezzi diminuiranno, bloccare sui massimi livelli chissà se è stata la scelta oculata. In ogni caso Edison promette in questo caso invece un 20% di sconto sul prezzo dell'energia. Dottor Misani. Sì, noi rispondiamo non solo per adesso ma anche per il futuro con una promessa ai nostri clienti. Intanto lei mi ha fatto due domande. La prima era come mai siamo partiti solo oggi. Beh, intanto siamo partiti solo oggi, da poco più di 3 settimane, perché in quest'anno abbiamo ascoltato le famiglie italiane, abbiamo ascoltato la loro voce e che cosa chiedevano. Sostanzialmente risparmio, semplicità, trasparenza e servizi aggiuntivi. Ci siamo anche accorti, ascoltando i nostri clienti, che c'era una grande distanza tra quello che i clienti chiedevano e si aspettavano rispetto a quello che il mercato offriva e ancora oggi offre. Ecco perché siamo partiti noi con un'offerta, con uno sconto garantito del 20% sul costo dell'energia elettrica, come definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Per capirci, stiamo applicando uno sconto che è garantito e più alto rispetto a qualunque altro player oggi a livello nazionale. Chi sottoscrive oggi il contratto di Edison Casa ha un risparmio su circa un 65% della voce della bolletta. Noi questo lo specifichiamo. Esatto, un risparmio del 20% sulla voce 65. Componente energia, componente perché energia. Tutto il resto sappiamo bene è fatto, sì, di orpelli, sì, di tasse, sì, di burocrazia, che sì, sono praticamente voci incomprimibili della bolletta che dobbiamo per forza pagare. E che già pagano oggi con la tariffa tutelata. Quindi noi lo spieghiamo chiaramente ai nostri clienti, spieghiamo cosa significa risparmiare il 20% sul costo dell'energia e in maniera molto semplice su ogni documento contrattuale. Quindi di fatto cosa ci chiedevano i clienti e come abbiamo risposto? Risparmio è il 20% a oggi, quindi una promessa di risparmio sulle tariffe dell'autorità che trimestralmente pubblica a tutela di tutte le famiglie italiane, una semplicità, documenti contrattuali molto, molto facili, molto, molto intellegibili, una trasparenza, appunto come dicevo prima specifichiamo bene su che cosa applichiamo gli sconti, anche la nostra bolletta è particolarmente semplice da leggere, e servizi aggiuntivi. Detto in soldoni, dottor Misurati, quanti nuovi contratti fino a questo momento, da quando siete partiti? Credo un mese, poco più, sì, o poco meno forse. Siamo soddisfatti dell'inizio e sta andando molto meglio di quanto abbiamo previsto. Non è ancora possibile. È prematuro fare un po' dei bilanci. Però insomma, guardi, no, magari dalla curiosità, voglio dire, di famiglie alla settimana. Ecco, migliaia di famiglie alla settimana. C'è una richiesta di contatto, di informazione, di ricerca di informazioni. Tante richieste di informazioni, ma tante famiglie che sottoscrivono con noi. Anche perché è molto semplice, possono aderire semplicemente con una chiamata al nostro numero verde, possono anche raggiungerci via web e sottoscrivere direttamente il contratto. E insomma, vi siete mossi tutti. Andiamo all'offerta Eni invece. Paola Osto, responsabile marketing, divisione Gas and Power, appunto, di Eni, che propone invece 4 soluzioni contrattuali. Qui l'offerta è un po' più articolata. Perché, dottoressa Osto? Sì, buongiorno a tutti ancora. Eni è già da luglio dell'anno scorso ovviamente si è proposta alle famiglie italiane con delle opportunità di offerta sia per il gas che per l'energia elettrica sul mercato libero. Noi oggi stiamo promuovendo l'offerta denominata 10 con te, che garantisce a chi ha attivato la fornitura sia di gas che di energia elettrica con Eni di avere un 10% di sconto sulla già citata componente energia del prezzo dell'elettricità definita aggiornato trimestralmente dall'autorità. Inoltre a questi elementi di convenienza legati al prezzo, garantisce alcuni elementi di servizio che noi riteniamo imprescindibili e fondamentali. Uno fra tutti, certamente, l'opportunità di avere la bolletta unica per chi appunto sottoscrive l'offerta 10 con te prevista, la bolletta unica, quindi un'unica rendicontazione per elettricità e gas, anche se ovviamente separatamente descritte come prevede la normativa, comunque con maggior fruibilità quindi del servizio di lettura della bolletta. Non ultimo il servizio consumo piatto, che noi offriamo gratuitamente, mi azzardo a dire particolarmente indicato alle porte dell'inverno, che garantisce l'opportunità di vedere ripartite uniformemente sulle bollette i consumi di elettricità e gas, consentendo quindi di evitare quei picchi di spesa che sono tipici di alcuni periodi dell'anno. Anche voi mi pare che consentiate di aderire all'offerta via web, via internet. Sì, ovviamente abbiamo attivato una pluralità di canali. Il servizio clienti, che ricordo dallo scorso 15 settembre, è attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 22, proprio per andare incontro il più possibile alle richieste di contatto dei nostri clienti. Abbiamo ovviamente a disposizione il web e non ultimo anche i nostri 200 negozi che sono presenti sul territorio. No, dottor Misani di Edison si sta preoccupando, le faccio dire tutto, non si preoccupi. Io quello che voglio far capire ai nostri ascoltatori è che comunque tutti gli operatori si sono mossi e naturalmente stanno cercando di cogliere nella maniera migliore possibile quelle che sono le esigenze, giustamente dottor Misani si soffermava su questo, le esigenze delle famiglie italiane che chiedono soprattutto però un quadro di confronto piuttosto chiaro. Io volevo anche segnalare, perché poi questo è giusto che lo facciamo, che l'autorità del gas e dell'energia ha messo a disposizione da luglio del 2007 un call center con un numero verde, che non è il nostro, ve lo dico, è l'800 166 654, promosso proprio per informare i consumatori sulle opportunità della liberalizzazione e tutte le tutele previste. Presto partirà anche un price calculator per il confronto dei prezzi, quindi anche da lì, mettendo tutti i dati relativi al nostro profilo, potremo capire magari qual è il miglior operatore per noi e la migliore offerta. Io vi ho fatto spiegare ovviamente in termini molto generali le caratteristiche delle vostre offerte, adesso però cerchiamo di capire tra le famiglie italiane davvero quali sono le esigenze, quali sono i dubbi rispetto alla liberalizzazione, cosa non è ancora chiaro. Allora cominciamo con Roberto da Torino. Roberto, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Allora, io ho proprio parlato stamattina, io sono di Torino, ho parlato proprio stamattina con la M, perché sono un commerciante, sono un pasticcere. Giusto, quindi... quello che non abbiamo, Roberto, ma non importa, vediamo cosa possiamo fare. Io l'anno scorso sono passato dal mercato a maggior tutela al mercato libero, però alla fine, a distanza di un anno, mi sono accorto che le bollette che mi mandano adesso la Iride, non c'è più la lettura del contatore, questa è stata una cosa che è stata decisa dalla legge, ecco, diciamo, di non mettere più i dati del contatore. E poi soprattutto il costo a kilowatt, in definitiva facendo la somma delle due tariffe che sono segnate qui nella bolletta, più l'addizionale della fattura del distributore, che anche quello lì è un costo, vengo a pagare 2 o 3 millesimi al kilowatt in più rispetto a quello che pagavo prima. Poi l'Iride mi ha fatto lo sconto di 3 millesimi e mi dice: però lei non può, lei se trova 10 euro per terra li raccoglie, li prende, quindi è meglio prendersi questo sconto piuttosto che non prendersi niente e passare di nuovo. Quindi Roberto, io adesso non ho nessuno dei due interlocutori che lei ha citato, quindi il suo dubbio qual è? Che tutto sommato tutta questa rivoluzione non porti nessun beneficio in tasca ai consumatori? È più chiara come era chiara prima sul mercato tutelato, perché mancano dei dati, quella della lettura del contatore, che è una cosa importantissima, e soprattutto anche per le famiglie. Io me ne accorgo nel mio negozio, io consumo molta corrente, quindi me ne accorgo, le cifre sono aumentate, un grande al di là degli aumenti del petrolio e destra sinistra. però mi ritrovo che le componenti, guardi, stamattina ci ho impiegato 30 minuti con l'operatore per farmi dire esattamente quanto era la tariffa e neanche lui non riusciva e non sembrava neanche volesse dirmela. No, vabbè Roberto, speriamo che non sia stato un atteggiamento in malafede. Io comunque la ringrazio per la sua testimonianza. Eccoci ritrovati, a Salva Danaio siamo tornati sulle bollette di luce e gas, l'elettricità in particolar modo, perché nel luglio dello scorso anno è scattata, come sapete anche in Italia, la completa apertura del mercato dell'energia elettrica e le famiglie possono scegliere liberamente i loro fornitori di energia elettrica. Abbiamo anche raccontato di come con una certa gradualità gli operatori abbiano presentato appunto le offerte per il mercato libero. Stamattina stiamo di nuovo ascoltando gli ascoltatori e quindi i consumatori per capire quali sono ancora i dubbi rispetto a questa piccola grande rivoluzione che ci riguarda, che è avvenuta sicuramente in termini anche silenziosi per certi versi. In ogni caso tutti gli attori player sono pronti con l'offerta per il mercato libero. Come funzionano, come si fa a cambiare operatore? Ma Roberto da Torino intanto ci aveva espresso la sua perplessità sul confronto rispetto al regime di maggior tutela, che è quello garantito dall'autorità del gas e dell'energia. Allora sentiamo Simone Lonostro di Enel. Dottor Lonostro, sentiva appunto la perplessità di Roberto. Lui dice insomma non è possibile esattamente quantificare il tipo di risparmio che posso fare, ma il passaggio al mercato libero secondo lei implica in ogni caso un regime di risparmio o non è detto? Beh, diciamo che la leva principale su cui il cliente dovrebbe agire è quella di un risparmio, però il tema del risparmio è un concetto abbastanza largo, perché con risparmio si deve intendere anche una sorta di risparmio di tempo. Il risparmio di tempo sta anche nella qualità del servizio che viene offerto. Noi infatti stiamo investendo parecchio e per offrire una qualità del servizio ai nostri clienti, tali per cui ad esempio i tempi di attesa nel caso di una chiamata al call center, che in questo momento possono sicuramente essere migliorati, raggiungano dei target veramente sfidanti. E un altro tipo di in senso lato di risparmio, come avevo detto prima, è anche il tema della sicurezza e della certezza della spesa e della chiarezza di quello che si andrà a pagare nei prossimi due anni. Questo effettivamente, quando poi questa rivoluzione è partita e molti operatori ce l'avevano detto, a parte il risparmio immediato sulla bolletta, che è poi quella che i consumatori vogliono e quello che i consumatori vogliono, in realtà in molti casi si lavorava soprattutto ad un'implementazione dei servizi offerti, no, per il passaggio al mercato libero. Dottor Misani di Edison, mi aiuti anche a capire, se vuole intervenire, venivo ovviamente anche su questo aspetto, ma anche la questione che Roberto poneva, dice io insomma non sono tanto convinto di questa rivoluzione perché per esempio non è più obbligatorio, oppure non so se i termini sono questi, non è più obbligatoria la lettura del contatore, quindi per il conteggio di quanto effettivamente consumo. Il passaggio al mercato libero davvero ha eliminato questo obbligo per gli operatori? No, in realtà non è così, non so se ho interpretato bene quanto detto da Roberto. Comunque, passando al mercato libero, il distributore locale continua ad effettuare con periodicità la lettura del contatore, a comunicarla alla società di vendita. Nel caso questa lettura non avvenga in tempo utile per la fatturazione, la società di vendita può fare una stima dei consumi e comunque noi come Edison riceviamo ben volentieri le autoletture dei clienti, sia via web sia telefonicamente, quindi in maniera molto, molto semplice il cliente, se vede che il distributore non ha effettuato la lettura, può comunicare la lettura che lui fa semplicemente accedendo al contatore. Quindi insomma a noi, magari banalmente deve forse controllare un po' meglio sulle bollette che ha ricevuto di recente, se esiste questa opzione, questa facoltà che viene data dall'operatore. Noi lo ricordiamo ai clienti, lo ricordiamo come un vantaggio, perché è molto semplice per loro e conveniente fare l'autolettura. Tra l'altro, se posso approfittare, diceva il collega di Enel, anche con noi, anche con Edison Casa, noi abbiamo curato l'aspetto del tempo per il cliente. Tant'è vero che sul sito Edison Casa a noi bastano le dita di una mano, con quattro clic banalmente possono fare con noi il contratto. Quindi mi viene da dire, però non è solo un risparmio di tempo che riusciamo a garantire, è anche un risparmio in termini economici. Quel 20% è proprio sulla tariffa dell'autorità che Roberto chiedeva come confronto con il tutelato, che insomma l'authority, è chiaro che l'authority trimestralmente a tutela di tutte le famiglie italiane pubblica le migliori tariffe disponibili, le tariffe della tutela, e noi su questo abbiamo scelto una strada molto, molto chiara, molto semplice, quella di fare un 20% di sconto. Allora, prima di sentire anche su questi aspetti la dottoressa Osto di Eni, sentirei anche un altro paio di ascoltatori magari. Egidio da Padova, benvenuto, ricordo il numero verde 800 24 00 24, questo è il nostro per intervenire a Salva Danaio, poi magari vi ricordo anche quello dell'Authority per tutte le informazioni sull'argomento di questa mattina. Egidio, buongiorno. Buongiorno e grazie per il vostro lavoro di informazione. Allora, la mia domanda è questa, Come è accaduto, e voi spesso ne avete parlato con la telefonia, adesso anche con l'energia cominciano ad arrivare offerte di tutti i tipi, anche nei discount alimentari ti offrono contratti. Nel maggio di quest'anno, io rientrando da Infostrada in Telecom sono rimasto senza linea telefonica, e spesso mia madre era morta pochi giorni prima, per oltre un mese, senza linea telefonica e internet. Io sono un commerciale, e qualche anno fa, visto che per giustizia c'è il signore di Edison, con Edison Tel chiesi una linea DSL per un negozio, non arrivò mai per problemi con loro interni con Telecom, mi furono nel contempo addebitate due bollette, soldi mai restituiti. Detto questo, insomma, il tema, lei dice, il passaggio da un operatore ad un altro, quindi aderendo al regime di mercato libero, magari cogliendo le opportunità che i vari operatori adesso stanno prendendo, non è che rischiamo nella fase di transizione di rimanere senza luce in casa e senza gas per cucinare. Allora, visto che avevo mantenuto ferma la dottoressa Osto, magari da questo partiamo. Dottoressa Osto di Eni. Allora, io vengo da voi e voglio abbandonare il mio precedente fornitore di elettricità. Voi mi garantite l'immediata partenza del servizio, naturalmente, cioè la transizione avviene in maniera indolore, spero. Allora, dividerei in due la sua sollecitazione. Avete già ricordato correttamente voi in apertura nel vostro servizio che in realtà per cambiare operatore, passare un'offerta del mercato libero, non è certamente necessario cambiare il proprio contatore né i fili elettrici. Ecco, quindi è importante ricordare questo aspetto, perché forse oggi esistono ancora alcune resistenze, ecco, psicologiche al cambio, legate al timore di dover fare degli interventi sui propri impianti. Questo non è assolutamente così. Confermo che è sufficiente rivolgere la richiesta al venditore, che quindi si fa con uno specifico mandato che riceve dal cliente, si fa parte attiva per effettuare la cosiddetta operazione, diciamo, di switch dal vecchio operatore al nuovo. Allora, dal momento in cui il cliente firma la sua proposta di contratto, decorrono indicativamente circa 2 mesi, dati i tempi tecnici necessari per fare questa attività di switch, così come l'abbiamo chiamata, di cambio. Voglio approfittare, visto che mi ha passato la parola prima, anche per ricordare un altro elemento che è tipico e caratteristico delle offerte del mercato libero, che l'autorità prevede, cioè nell'ambito dei contratti che noi operatori proponiamo al mercato è prevista anche la cosiddetta scheda dei corrispettivi, che è uno strumento che impone, di fatto secondo uno standard che l'autorità ha ben delineato, di mettere a confronto le condizioni economiche dell'offerta che l'operatore sta proponendo con appunto le condizioni economiche definite e aggiornate trimestralmente dall'autorità per l'energia elettrica e il gas. Questo proprio nell'intento di poter dare uno strumento che sia omogeneo per tutti gli operatori che competono sul mercato, uno strumento di trasparenza in mano al cliente, che così riesce a confrontare quantomeno le condizioni economiche dell'offerta che sta prendendo in considerazione con quelle dell'autorità definite per il mercato in maggior tutela. Nadir da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Ti dica tutto. Io volevo fare una domanda riguardo a un nuovo contratto. Io ho appena stipulato un mutuo per una nuova casa. Sì. E avevo ancora il contratto fatto attraverso l'uso cantiere. Per fare il passaggio verso un nuovo operatore, dovevo direttamente rinfacciarmi verso l'Enel oppure attraverso direttamente una nuova società? Cioè, lei voleva comunque, adesso a parte il fatto che è una casa nuova, Nadir, voleva comunque passare al mercato libero e quindi voleva approfittare di questo cambio di casa anche per lasciare il vecchio operatore e cambiarlo, e quindi lei, insomma, chiede se è necessario ripartire comunque dalla situazione pregressa, dalla situazione vecchia. Sì, perché io non ho attualmente un contratto con nessuno. L'uso cantiere è del cantiere che me l'ha messo. Ma non credo che questa facoltà non sia possibile. Simone, lo nostro di Enel, visto che vi ha citato. Sì. Lei che cosa ne pensa? Cosa possiamo suggerire, allora, Nadir? Io per il mio ruolo mi devo augurare che contatti l'Enel, però devo per onestà intellettuale devo dire che può contattare l'operatore che in questo momento non bisogna, insomma, ripristinare. Offre il prodotto che più le interessa. Ecco. Manteniamoci però alle tematiche del mercato libero. Fulvio da Livorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Le è arrivata una lettera dalla quale non ha capito niente. Mamma mia, è ridicolo, guardi, veramente è ridicolo. Mi è arrivata una lettera di 4 pagine, scritto proprio piccolo, piccolo, piccolo, di quelle che ci vuole una mezza giornata per leggere e poi anche per capire, perché non è semplice, comma A, punto B, punto B, veramente difficile. E alla fine per dimostrare che cosa? Ma è una lettera, che... Fulvio, mi faccia capire, che le è arrivata informativa perché lei ha chiesto il passaggio al mercato libero? No, non ho chiesto niente. Mi è arrivata questa lettera da Enel Energia per cambiare il tipo di contratto da Enel, come sono adesso, a Enel Energia. In questa lettera praticamente si dice grosso modo che c'è la tariffa di oraria, quella di giorno e di notte, che ho attualmente anche con Enel, e che garantivano la tariffa fissa fino al 2010, mi pare di ricordare, perché non ce l'ho sotto mano, sono in macchina, fino al 2010. Quindi, insomma, allora, sintetizzando, Fulvio, qual è la sua perplessità? Troppa informazione, dovrebbero essere più chiare le nuove offerte anche quando arrivano come pubblicità in casa? Assolutamente sì, ma basta guardare una bolletta dell'Enel normale, non ci si capisce nulla. Non ci andiamo ad accanire proprio contro Enel, perché voglio dire, se no, altrimenti non tornano più a salvadanaio. Fulvio, detto questo, la sua perplessità la esprimono anche in molti altri ascoltatori al 349-238-6666, riguardano anche altri casi, non solo Enel. Eravamo rimasti alla considerazione di Fulvio, che diceva in sostanza gli è arrivata una lettera di un operatore, nella fattispecie fittissima, di informazioni per certi versi difficili anche da comprendere. Sicuramente poi stiamo parlando di una persona che mi diceva, insomma, è un imprenditore, per cui figuriamoci se arriva in casa di un anziano cosa si può capire delle opportunità del mercato libero. E Fulvio diceva anche che nel confronto con la complicata bolletta Enel bioraria sembra che spenda uguale. Insomma, dottor Lo Nostro, la lascio rispondere alle perplessità di Fulvio. Sì, allora ci vuole un preambolo, che è quello che noi siamo consapevoli che quando mandiamo a casa di un nostro cliente il nostro contratto è sicuramente un contratto denso di informazioni. C'è da dire che queste informazioni però al 95% sono imposte dagli standard contrattuali che l'autorità correttamente pretende che noi inviamo, perché è un discorso anche di tutela del consumatore. Sarebbe molto bello per noi, anche proprio lavorativamente parlando, mandare semplicemente una lettera con scritto compra i light piuttosto che compra energia pura a casa, fidati di noi, buon proseguimento, arrivederci. Però in questo modo non tuteleremo il consumatore, che non avrebbe tutte le informazioni che gli sono comunque necessarie o gli potrebbero essere necessarie in un futuro per gestire correttamente il proprio rapporto contrattuale. Quindi è vero che i nostri contratti sono densi di informazioni, ma come lo sono anche i contratti quando uno stipula una polizza assicurativa, perché sono comunque contratti che devono dare informazioni ai nostri clienti fondamentali per lo sviluppo del rapporto contrattuale. Dottor, sì, mi scusi. Detto questo, stiamo lavorando per snellire ulteriormente, nei limiti, ripeto, di quello che è nei nostri margini di operatività, il nostro contratto, tant'è che ad esempio il signore parlava di un contratto di 4 pagine, l'offerta ai light, se uno vuole scaricarsi il contratto da internet dopo che l'ha stipulato, è di soli 3 pagine, quindi abbiamo ridotto del 25% numero di pagine, mantenendo ovviamente i caratteri delle dimensioni, delle stesse dimensioni. Devo dire che per dare atto al vostro lavoro, insomma, 4 pagine tutto sommato rispetto a tante altre cose che si vedono non mi sembrano poi neanche così tanto terribili. Poi dipende quanto erano minuti, insomma, i caratteri della lettera. In ogni caso, Lorenzo Misani di Edison, voi che siete partiti recentemente, avete colto anche questo come problema tra i consumatori, insomma, poche informazioni e chiare, è tanto difficile farlo? No, anche per capire un po' effettivamente, perché non credo che anche voi vi divertiate a mettere lì tecnici, a scrivere clausole su clausole, quindi sono quanto c'è di obbligo imposto nella documentazione da formulare e quanto invece ci mettete di voi, insomma, per fare anche un po' di confusione fra i consumatori qualche volta? Sicuramente, come dicevo prima, siamo partiti dall'ascolto del cliente, che chiedeva semplicità, e quindi pur nel rispetto degli obblighi, nello scrivere i contratti, pur nel rispetto degli obblighi previsti dall'autorità, abbiamo cercato di semplificare molto, e devo dire che molto spesso ci si scontra contro dei retaggi del passato. Se guarda la nostra offerta, il nostro contratto è una pagina di fatto, poi abbiamo delle condizioni generali che, vabbè, insomma, sono scritte forse in un carattere non cubitale, ma non così piccole, stanno in un'altra pagina. Il resto avevamo a disposizione 2 facciate, le abbiamo utilizzate per fare della pubblicità la nostra offerta, sostanzialmente, quindi comunicare che c'è questo 20% di sconto. E tra l'altro devo dire che una cosa che ci è venuta in aiuto è la richiesta dell'autorità di inserire la scheda di confrontabilità, la scheda di comparazione tra l'offerta che si sta sottoscrivendo e la tariffa del tutelato. E in questo caso devo dire che la nostra offerta è molto chiara e fa vedere come oggettivamente si risparmi da subito. È naturale che lei dica che la sua offerta è chiarissima, certo, però noi non abbiamo avuto tempo di documentarci al meglio e leggerla bene. Sì, adesso non posso leggerla in diretta. Comunque, in ogni caso, prendiamo atto del fatto che gli operatori ci provano. Poi naturalmente ci sono le associazioni dei consumatori, c'è un'autorità garante appunto del gas e dell'energia che vigila molto attentamente. Tra l'altro c'è stato anche un accordo con Mister Prezzi per monitorare con grande attenzione anche questo passaggio al mercato libero, in che condizioni sta avvenendo, e sappiate che le società che non si comportano bene vengono anche pesantemente sanzionate. 800 24 00 24, Salva Danaio stamattina è volata. Achille da Genova, buongiorno. Buongiorno, senta, io ho delle perplessità circa, diciamo, questa liberalizzazione del mercato, in quanto praticamente sono stato contattato da una società per passare appunto per pagare questa energia elettrica, e mi hanno proposto un'offerta diciamo, a prezzo fisso per 2 anni di 10 centesimi. Però poi, confrontando lo specchietto che c'è inserito nel contratto, praticamente su 3.500 kilowatt di spesa, cioè di consumo annuo, ho visto che non c'è nessuna differenza, nonostante diciamo, il prezzo sia notevolmente basso rispetto a quello praticato dall'Enel. Documentandomi un pochettino meglio e andando sul sito del garante, ho visto che effettivamente ci sono delle spese, quanto per esempio le spese di distribuzione dell'energia elettrica, che non sono evidenziate nel contratto, per cui il prezzo fisso, diciamo, per 2 anni di 10 centesimi a kilowatt è soltanto uno specchietto delle allodole, per le allodole, e praticamente non c'è un risparmio grande e effettivo. Diciamo, passando a un'altra società, ecco. Achille, lei ha sintetizzato molto bene tutte le criticità della questione che stiamo affrontando questa mattina, però per non dare ancora la parola a Simone Lonostro e a Lorenzo Misani, sentirei Paola Osto sulle perplessità di Achille da Genova, quindi Eni. Sì, tanto per quanto riguarda le informazioni sull'offerta a prezzo fisso, è importante ricordare che la componente che di solito viene fissata dall'operatore nel contesto del prezzo è appunto la componente energia. Quella è quindi la componente di prezzo che viene di fatto fissata per 1, 2 o 3 anni a seconda delle offerte che gli operatori mettono a disposizione. La scheda di confronto che il signore citava appunto mette a confronto le condizioni del primo anno, intanto è importante ricordarlo, dell'offerta in questione rispetto all'autorità. In quella scheda citata più volte appunto in realtà sono per diversi profili di consumo, 3.200 e 7.500 kWh annui, messe a confronto le condizioni economiche al netto delle imposte dell'offerta a prezzo fisso con l'offerta dell'autorità. Quindi è importante in realtà conoscere anche la composizione di questi strumenti per riuscire a darne una corretta interpretazione. Ha ragione, però non siamo tutti addetti ai lavori, qualche volta davvero per noi questo forse è un eccesso che facciamo fatica a comprendere. Mi rendo conto che non è colpa vostra, insomma viviamo in un sistema in cui tende a complicarci la vita in ogni modo. Io purtroppo non riesco a farvi intervenire, adesso sentiamo l'ultima pillola che dobbiamo mandare in onda, perché io vi ricordo che ancora in edicola con Il Sole 24 Ore, l'Instant Book, la grande crisi domande e risposte per spiegare cause e conseguenze dell'attuale shock finanziario. Noi continuiamo a proporvi delle pillole contenenti le parole chiave per definire questa crisi. Oggi abbiamo scelto una parola che per la verità voi conoscete molto bene, conto corrente. Conto corrente è un prodotto per la raccolta dei risparmi che semplifica la gestione del denaro grazie ai servizi offerti dalla banca per effettuare pagamenti e riscuotere incassi. La differenza tra l'importo complessivo degli accrediti, versamenti, e quello degli addebiti, prelevamenti, effettuati fino a una certa data, è espressa in modo sintetico dal saldo del conto corrente. A seconda del segno della differenza, il saldo è detto a credito, positivo, altrimenti a debito, negativo. Ogni nuova registrazione sul conto ne determina un aggiornamento. E anche per oggi Salvadanaio termina qui. Grazie a Simone Lonostro di Enel, Paola Osto di Eni, Lorenzo Misani di Edison. Probabilmente c'erano tanti altri temi che dovevamo affrontare questa mattina, però noi abbiamo voluto chiamare le compagnie anche per far rendere loro conto quali sono ancora le problematiche attive alla partenza con successo del mercato libero dell'elettricità. Ci torneremo sicuramente su questi argomenti. Intanto grazie a tutti per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, buona giornata.